Benvenuti nel quinto episodio di La casa del ciliegio. Oggi parliamo di come iniziare a praticare mindfulness anche se sei un principiante assoluto. Se ti sei sempre chiesto come fare, questo episodio è per te. Il primo passo per iniziare a praticare mindfulness è semplicemente decidere di farlo. Non c'è bisogno di attrezzature speciali o di un ambiente particolare. Puoi cominciare con pochi minuti al giorno, magari durante una pausa caffè o prima di andare a letto. Per cominciare, prova a fare una semplice meditazione di respirazione consapevole. Siediti in un posto tranquillo, chiudi gli occhi e concentra la tua attenzione sul respiro. Quando la mente si distrae, riportala gentilmente al respiro. Senza giudicare. All'inizio può essere difficile mantenere l'attenzione, potresti sentirti frustrato o pensare che non stai facendo bene. È normale. La pratica richiede tempo e la mindfulness è proprio imparare ad accogliere queste difficoltà senza giudicarle. Se vuoi imparare a praticare la mindfulness in modo più strutturato, ti invito a iscriverti ai miei corsi. Sono pensate per guidarti passo dopo passo con tecniche semplici ma potenti per integrare la mindfulness nella tua vita quotidiana. Nel prossimo episodio parleremo di mindfulness e stress e di come gestirlo.